Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rassegna stampa in cui curiosiamo tra i settimanali italiani e stranieri, tra le varie proposte che ci sono in edicola. E proprio di proposte che il Sole 24 Ore sta facendo in questi giorni, una in particolare proprio da oggi in edicola, vi voglio parlare questa mattina. Da oggi con il Sole 24 Ore trovate il nuovo ABC dell'economia, le 300 parole per capire che cosa cambia dopo la grande crisi. È un dizionario molto abbordabile, molto comprensibile, che aiuta un po' tutti, direi, non solo gli esperti ma anche coloro che magari si occupano meno frequentemente di queste cose, a capire molti dei termini che abbiamo sentito ritornare incessantemente in questi mesi. Non so, ad esempio stress test oppure subprime, swap, svalutazione e così via. Per presentarvi un po' il prodotto che è in vendita, ve lo ripeto, con il Sole 24 Ore proprio da questa mattina a 5,90 euro, che vengono poi aggiunti al prezzo appunto del quotidiano, vi leggo una parte della introduzione che è scritta dal collega Marco Mariani, ha un titolo già curioso che è la CRIFI, l'autocalisse e la fabbrica globale dei neologismi. Che cosa significa questo titolo così curioso? La tempesta finanziaria ha modificato anche il lessico di uso quotidiano con un trionfo di termini meticci. E ad esempio, quali sono questi termini meticci? La sobrietà di una nuova classe che può essere identificata, chiamata come borghesia, cioè borghesia finta povera, oppure l'arte di sopravvivere che viene messa in atto dal recessionista. Ad esempio su borghesia finta povera, sono benestanti che, come è stato notato dal New York Times, vestono come vagabondi però spendono come milionari, cioè dissimulano la propria ricchezza per pudore verso i ceti indigenti, salvo poi ostentarla di fronte ai propri pari. Comportamenti nuovi, appunto, che sono stati in qualche modo indotti e alimentati dallo stato di crisi finanziaria prima ed economica poi, e che hanno trovato consacrazione anche in termini nuovi. Grande CRIFI, dicevo appunto, non è un improvviso difetto di pronuncia da parte mia, è proprio scritto così con la F. Grande CRIFI perché? Perché c'è un acronimo americano che è FICRI, cioè Financial Crisis, cioè crisi finanziaria, e quindi l'unione di crisi finanziaria e crisi porta a questo CRIFI, che forse non è il più fortunato dei neologismi. Autocalisse invece fa riferimento ovviamente al momento molto difficile dei produttori di auto statunitensi, e quindi anziché apocalisse, autocalisse, cioè il momento molto molto difficile dei produttori di auto statunitensi. E poi ci sono anche gli influssi asiatici, ma trovate poi appunto tutti questi termini e molti altri in questo dizionario, il nuovo ABC dell'economia, 300 parole per capire cosa cambia dopo la grande crisi. Ancora con il Sole 24 Ore, questa volta da ieri, però forse qualcuno di voi lo ha già visto, torna in edicola Il è un mensile che viene proposto dal Sole 24 Ore, la sigla sta per Intelligence in Lifestyle, questa volta la copertina molto visibile, molto rossa, dominata da un gran colore rosso, è intitolata alla sindrome cinese. Che cosa significa sindrome cinese? Come e perché il più grande paese comunista del mondo sta in realtà salvando il capitalismo. Stiamo ancora quindi parlando di questioni legate alla crisi, questa volta però con un taglio diverso. Il si preoccupa appunto in questo numero di analizzare che cosa sta succedendo in Cina e perché la Cina diventa poi così importante anche per noi occidentali. Per spiegarlo, ad esempio, vi segnalo un testo che è in realtà un lavoro di più colleghi di Il, dei colleghi del Sole 24 Ore di Il, che si sono domandati che cosa comprano i consumatori cinesi. Voglio una Rolls, i vestiti di Barbie e tantissimi cavallucci. E secondo gli esperti, leggo da Il, i cinesi sono consumatori sparagnini e diffidenti, tuttavia negozi e centri commerciali spuntano come funghi per soddisfare le loro strane abitudini. Ora, perché ci dobbiamo così tanto preoccupare delle abitudini di consumo dei cinesi è abbastanza comprensibile. Se naturalmente la Cina continua con la sua crescita, tutto il mondo, noi compresi, può trarne beneficio. Ma vediamo appunto cosa scrivono i colleghi di Il. Gloria al consumatore cinese, salvatore putativo dell'economia globale. La Cina continua a crescere a un invidiabile ritmo dell'8% e all'interno di questo dato le vendite al dettaglio salgono di più del 15% ogni anno. Ora il Celeste Impero vanta uno stuolo di milioni bofau, i nuovi ricchi, chiedo scusa per la pronuncia che sarà sicuramente sbagliata, mentre gli sgargianti centri commerciali creati per soddisfare i bisogni di questa nuova classe sociale spuntano come funghi. E che cosa comprano appunto i cinesi? Che cosa possiamo proporre ai cinesi? Comprano innanzitutto auto grandi e vistose. Negli Stati Uniti, spiega sempre Il, le auto devono avere enormi portabicchieri, ma in Cina di rigore è invece l'autista. Ecco perché quando la Porsche ha deciso nel pieno dell'apocalisse finanziaria di lanciare una berlina a 5 porte, l'ha presentata in Cina. Forse l'ultimo posto sulla Terra dove c'è ancora qualcuno che ha 250.000 euro da buttare, buttare si fa per dire, su una macchina sportiva con autista. E la storia d'amore fra la Repubblica Popolare e le grandi auto di lusso è comunque appena agli inizi, avvertono da Il. Un'altra cosa su cui c'è molta attenzione da parte dei consumatori cinesi, si potrebbe dire anche un po' una mania, è Barbie, la bambola Barbie naturalmente. La Mattel sta puntando sulle ragazze di Shanghai per risollevare le sue vacillanti fortune e ha aperto nella città di Shanghai il negozio di Barbie più grande del mondo. In Cina la Mattel, che è appunto la casa che produce la notissima bambola Barbie, sta rivoluzionando il modello, trasformando la Barbie da bambola a stile di vita. Quasi un intero piano nel negozio di Shanghai è dedicato agli abiti da Barbie, ma in dimensioni naturali. Camicette con i lustrini a prezzi esorbitanti, cose che in America le bambine non si metterebbero mai. Ma in Cina, invece, dice Shaun Rain della China Market Research, il genere sexy adorabile, così viene definito, è quello prediletto dalle segretarie di Shanghai. Naturalmente viene citata anche Hello Kitty, ma chissà perché avrebbe meno fortuna di Barbie in Cina. E poi ancora va molto forte l'avorio e vanno molto forte le bevande alcoliche. Vi rimando poi naturalmente a Il per avere una più precisa indicazione dei consumi cinesi e di molte altre cose che stanno accadendo in Cina e che, come spiega appunto la copertina del mensile del Sole 24 Ore, sono così importanti per il mondo intero. Un'ultimissima segnalazione ancora da Il, la crescita delle biciclette a Copenaghen. Se siete mai stati a Copenaghen, allora sapete che a Copenaghen in realtà sembra che tutti vadano in bicicletta, però la cosa che segnala Il è che ai danesi, ai governanti della capitale danese, questo ancora non basta, perché hanno infatti varato un maxi stanziamento di 270 milioni di euro per aumentare ulteriormente l'utilizzo della bicicletta nella capitale danese. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di paesi stranieri, di Cina appunto, di Danimarca con il mensile del Sole 24 Ore che è in edicola da ieri, in vendita con il quotidiano. Restiamo un po' all'estero ancora per un momento, perché su Newsweek questa settimana c'è un articolo decisamente inatteso, il titolo è Ripulire il Russo, affidato da Arina Shevchenko, si chiama appunto come il calciatore, il noto calciatore, si occupa però non di calcio ma di tutt'altro, cioè della cattivissima abitudine che avrebbero i russi di parlare, di usare parolacce e soprattutto di bestemmiare. Scrive infatti Darina Shevchenko, i russi amano segnalare che il loro linguaggio ha più bestemmie che qualsiasi altro, però le autorità locali stanno in realtà avviando una campagna per cercare di limitare questo malvezzo, specialmente nei rapporti con il pubblico. E quindi sono stati diffusi addirittura in una cittadina che si chiama Barnaul dei manualetti in cui i dipendenti di un grande magazzino sono stati invitati a sostituire alcune espressioni troppo colorite, appunto comprendenti anche espressioni blasfeme, con sostituzioni più accettabili. Quindi no, ci sono proprio delle frasette del tipo: non mi distrarre, mi scusi, mi sta annoiando, mi sta dando fastidio, e così via. Non si dà naturalmente la versione che viene sostituita. Questo piano anti-blasfemia, anti-bestemmie, in realtà è già diffuso anche in altri in altre parti della Russia, tant'è vero che già da 5 anni in un'altra cittadina si sono già spesi diversi milioni di rubli per provare a migliorare il linguaggio della popolazione. Si chiede la Shevchenko: la campagna sta funzionando? Beh, insomma, la sostanza è sì, ma non abbastanza. Ci sono delle attenzioni migliori, sicuramente delle maggiori attenzioni nei confronti, ad esempio, della clientela nei locali pubblici, però in realtà l'abitudine, il malvezzo sarebbe così diffuso che nemmeno un impegno amministrativo sembra in grado di risolvere in breve tempo questa abitudine al turpiloquio, al parlare pesante dei russi. Allora, affrontiamo invece tutt'altro argomento con Donna Moderna. Non so quanti degli ascoltatori abbiano notato settimana scorsa sul Sole 24 Ore in prima pagina un articolo di Maureen Dowd, che è una giornalista, una firma del New York Times. Questo articolo sul Sole 24 Ore si chiedeva come mai le donne di oggi sembrano non essere felici, o addirittura, come riprende poi Donna Moderna, che ne fa oggetto di un'inchiesta, le donne di oggi sembrano essere proprio tristi. Si chiede: Donna Moderna, è vero che le donne di oggi sono tristi? E perché sarebbero tristi, come scriveva la Dowd sul Sole 24 Ore, come riprende appunto Donna Moderna? L'emancipazione, le conquiste sul lavoro, nella società, non hanno reso più felice l'universo femminile. Al contrario, in tutto il mondo è meno contento e sereno di 40 anni fa. È la tesi scioccante di un autorevole istituto di ricerca americano. Abbiamo chiesto a donne e uomini celebri se è proprio così. Quindi Donna Moderna ha costruito per appunto la penna e il lavoro della collega Mariella Boerci un catalogo di risposte in cui ha chiesto a donne famose e anche di successo, si può dire, se si sentono veramente più o meno tristi, se si sentono tristi rispetto a una presunta felicità precedente, diciamo, all'epoca delle pari opportunità. Allora, per Chiara Saraceno, ad esempio, più che di infelicità bisognerebbe parlare di insoddisfazione. Oggi le donne hanno vite più complicate, spiega la sociologa, con la possibilità di giocare più ruoli, spesso senza sostegni, sempre sotto giudizio e pertanto con maggiori tensioni e con la possibilità anche di fallimenti. Laura Biagiotti, la stilista Biagiotti, dice: credo che a noi donne oggi manchi una educazione alla felicità, perché ci siamo abituate a porci solo traguardi troppo lontani e non a far quadrare il bilancio quotidiano, imparando a godere anche delle piccole felicità. Un'altra donna famosa, Rita Rusic, che è una produttrice, dice invece più in modo più tranchant: non mi stupisce che gli uomini siano più felici di noi, strutturalmente sono più elementari. E questo è un modo di risolvere, diciamo, il dilemma abbastanza brutale, sia detto appunto visto dalla parte di un uomo. Lidia Ravera, la scrittrice Lidia Ravera, invece trova che più che infelici le donne di oggi siano più complesse, perché sono più sensibili, più esigenti sul piano della relazione. Comunque, dice la Ravera, stanno sicuramente meglio adesso di 30 o 40 anni fa, quindi potranno anche essere tristi, ma in realtà è una tristezza che si può ben accettare se si guarda al cammino compiuto appunto dal punto di vista delle pari opportunità. È un po' l'argomento che riprende anche Gianna Schelotto, ed è l'ultima tra le molte donne che vengono intervistate da Donna Moderna, che dice: si parla di infelicità femminile adesso, attribuendone la colpa anche al femminismo, spiega la Schelotto, però nessuno prima dell'emancipazione è mai andato a chiedere alle donne se erano felici o no. E direi che questo argomento in qualche modo potrebbe essere considerato quasi conclusivo della rassegna. Ci sono poi molti altri pareri, ma vi rimando appunto a Donna Moderna. La questione però della felicità o infelicità femminile è in qualche modo ripresa anche da un articolo di Panorama. Lucia Scaiola infatti segnala una iniziativa particolare che è sorta a Milano, Donne Cercasi per ruoli di potere. Lì, troppo spesso i posti chiave delle aziende sono un'esclusiva degli uomini. È nato allora un progetto originale per scovare i profili femminili da valorizzare. Spiega la Scaiola, c'è questo progetto che si chiama Ready for Board, quindi pronte per il ponte di comando, in qualche modo si potrebbe dire, che è nato per sollecitare e agevolare chi ha responsabilità di formare i consigli di amministrazione di società pubbliche e private e fornisce i curriculum di donne che hanno appunto tutte le caratteristiche per sedere in un consiglio di amministrazione. Questo su Panorama. Sul Venerdì invece si racconta tutt'altra storia di donne in tutt'altra parte del pianeta, cioè il che fa pensare, in contrasto appunto con questo discorso sull'infelicità, giustissimo, ma che si presenta però contemporaneamente ad altre vicende femminili, quali quelle che vengono raccontate dal Venerdì. Divorziata a 9 anni è il titolo di un articolo di Antonella Barina che compare sul Venerdì, che avete trovato ieri con Repubblica. È la storia appunto di una sposa bambina, è stata costretta a 9 anni a sposarsi, costretta dal padre a sposarsi a 9 anni con uno sconosciuto di 30 anni. È riuscita a divorziare, questo è l'aspetto positivo della vicenda. La storia di questa bambina adesso esce anche in Italia in un libro che è di Delphine Minuit, si chiama Io, Nojoud, 10 anni divorziata. In Francia questo libro ha già superato le 100.000 copie ed è tradotto in 15 paesi. Il Venerdì di Repubblica ricorda poi nelle pagine dedicate a questo libro le molte donne che sono state arrestate in Sudan per aver voluto indossare i pantaloni. Io arrestata per i pantaloni come altre 43.000 donne, quindi a dimostrazione che per la pari opportunità a livello globale ci sono ancora parecchi passi da compiere. E chiudiamo decisamente con qualcosa di più leggero. Devo una rettifica, perché riprendendo una segnalazione da un settimanale in una delle scorse puntate ho detto che presso uno studio legale molto importante, si chiama Clifford Chance, viene pagata addirittura una indennità per la biancheria intima. Ora mi ha scritto un ascoltatore che però è anche un amico, Carlo Galli, che è un commercialista proprio di Clifford Chance, che mi dice in realtà non è proprio così, anzi è una bufala colossale. L'hanno tirata fuori in Inghilterra, è riferita dall'Evening Standard, cioè è stata segnalata per prima dall'Evening Standard e poi ripresa da altre testate. Tuttavia garantisco che è pura fantasia, potrebbe essere credibile magari se qualche avvocato l'avesse effettivamente reclamata, ma non è vero che alla Clifford Chance viene pagata una indennità per la lingerie agli avvocati, così come, segnala sempre Galli, non è vera la storia del piano degli uffici di Londra dove è possibile riposarsi, dove è possibile dormire. Con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, io ringrazio Carmelo Lauricella che mi ha assistito in regia, Vittoria Mussini e Manuela Sicuro che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A sabato prossimo.